bambino del Bangladesh, il bambino più ricco della società britannica o americana, insieme abbiano una seconda lingua, che l'anglofono abbia una seconda lingua, è urgente. Esperam, felician pascon en Cristo resurrectinta. Io dirò che sogno in esperanto. Ogni sabato notte, a mezzanotte e mezza, Traslime, www.traslime.it. Ma la puntata di quest'oggi di Traslimen è dedicata un po' a questo montante negazionismo da parte della stampa italiana, e non solo della stampa italiana, ma anche di molti radicali su Pannella Esperantista. Negazionismo perché? Perché alla pari di coloro che negano la sofferenza della Shoah, ci siamo imbattuti in queste giornate post-Pannella in una serie di articoli, ma anche di scrittori, poi accennerò anche a quello di Saviano, uscito proprio recentissimamente, che però dimenticano, appunto in realtà poi negano, quella gran parte di opera fatta da Pannella, e che per certi versi è potuta andare avanti grazie a spiriti altrettanto liberi e altrettanto cocciuti come quelli dell'Associazione Radicale Esperanto, anche a dispetto di coloro che invece erano contrari a quello che considero l'aspetto di democrazia linguistica fondamentale per quanto riguarda la vita delle culture e dei popoli del pianeta stesso. E quest'oggi voglio farlo proprio a partire da quella che è stata probabilmente l'esempio più eclatante, per certi versi, trasmesso da Radio Radicale, che è il congresso della Federazione Esperantista Italiana del 1990, che fu addirittura per molte giornate, e in particolare per domenica 26 di agosto del 1990, integralmente trasmesso da Radio Radicale, con quindi anche molta parte direttamente in lingua internazionale, dato che molti degli ospiti erano esperantisti ed esperantofoni. Nella fattispecie il discorso di Marco Pannella è stato anch'esso mano a mano tradotto in esperanto, ma da questo punto di vista abbiamo tolto tutta la parte della traduzione consecutiva per permettervi un ascolto quanto più agevole possibile. Ma le motivazioni gravi, davvero molto gravi, della situazione politica circa la distruzione di lingue e culture e l'omologazione anglofona è proprio detta chiaramente all'interno del discorso di Marco, che dice infatti: all'umanità la possibilità di compiere la scelta della lingua internazionale, e questa è una scelta e comporta una lotta drammatica, difficilissima, di tipo politico. E per questa drammaticità, che con semplicità abbiamo compiuto, per esempio, la scelta di trasmettere in diretta tutti i lavori del congresso attraverso Radio Radicale, credo che questo sia un fatto storico. Non credo che sia mai accaduto che centinaia di migliaia di persone ascoltino, vivano l'esperanto. Non credo sia mai accaduto nel mondo. È una cosa umile, semplice, ma sta accadendo. Sempre all'interno di questo intervento al congresso esperantista del 1990 troverete anche tutte le motivazioni relative alla lingua federale, al fatto che la commissione deve prendersi la responsabilità di fare sì e di fare no, insomma tutto quello che poi è stato il contesto delle battaglie successive, compresa anche quella che riguardava la benedizione Urbi et Orbi, che già preannunciava Pannella magari con una marcia per il 91-92, ma che invece riuscì solo nel 1994, grazie a una iniziativa durata tutto questo tempo, ma che alla fine fu vincitrice, anche se durante una marcia che era stata organizzata contro la pena di morte nel mondo. E l'artefice ovviamente di questa iniziativa fu allora Giovanni Paolo II. È importante, secondo me, aprire questa fase, diciamo così, di interventi di Marco Pannella, e non solo, ma diciamo così, in un qualche modo antinegazionisti, perché anche, come dicevo, quello che viene riportato da Saviano, al di là di tutte le varie campagne e battaglie, effettivamente è per certi versi sconcertante, perché da questo punto di vista la questione della lingua internazionale, declinata poi all'interno di una di uno slogan, di un'ottica che è della lingua comune della specie umana, peraltro insomma ribadita anche quello che è diventato ormai la sigla iniziale di Traslimen, con le stesse parole di Marco Pannella. Ecco, da questo punto di vista nessuno dice che la campagna, la battaglia per la lingua internazionale nel mondo è la più antica e non a caso anche davvero ultima battaglia del Partito Radicale, quindi la più lunga certamente, quella che non è riuscito a portare fino in fondo, e che ovviamente invece noi cerchiamo e cercheremo di fare, perché dietro abbiamo delle convinzioni personali che peraltro risalgono anche a tempi precedenti, ovviamente a quelle relativi all'adozione formale della questione esperantista da parte del Partito Radicale, che peraltro già nell'89, anche lì secondo me sarà importante ascoltare degli spezzoni nelle prossime settimane, proprio contro questo negazionismo pervasivo rispetto a Marco Pannella esperantista. Perché? Perché a Budapest, dove ci fu il congresso forse più importante della svolta internazionalista, o meglio transnazionalista, per così dire, furono molteplici gli interventi relativamente alla questione della lingua internazionale. Basti citare Chiti Batelli, che viene anche in questa occasione citato da Marco Pannella, ma Radosz, che allora era il presidente della Federazione Esperantista Ungherese, e poi ancora Alberto Menabene, insomma tanti partecipanti, Vittoria Spina, insomma tanti radicali esperantisti che hanno dato continuità poi a questa battaglia fino ai giorni nostri, perché poi nel 1993 entra proprio ufficialmente, dopo tutte queste messe a conoscenza, diciamo, degli iscritti che partono già dal 1989 appunto a Budapest, gli iscritti del Partito Radicale, fino a poi anche al congresso seguente, il 36esimo congresso del 92, con le due sessioni, e poi nel 93, quando entra formalmente tra le prime cinque campagne fondamentali del Partito Radicale a Sofia. Ecco, da allora in ogni mozione, compresa anche quella del 2011 del Partito Radicale, c'è sempre stata, tra le campagne del Partito Radicale, quella sulla lingua internazionale. E pertanto il Partito Radicale avrebbe dovuto ovviamente cercare di svolgere la propria mozione. Ovviamente ciò per certi versi è accaduto, non è accaduto e così via, ma certamente è importante ribadire questa continuità per tutti questi decenni, e da questo punto di vista credo che l'intervento, sia per quanto riguarda Radio Radicale di quelle giornate, sia lo stesso intervento di Marco Pannella di quella occasione, sia importante, perciò quindi oggi ve lo trasmetteremo. Ve lo trasmetteremo anche rispetto a un altro dei temi di cui ci stiamo occupando ultimamente, perché mette a repentaglio, anzi, come sapete, abbiamo documentato come per alcuni studiosi metterà fine al processo di unificazione europea e farà anzi dell'Unione Europea quello che fu l'Europa dell'Est, cioè i cosiddetti paesi satelliti dell'Europa dell'Est per la Russia. Ecco, questo accadrà per quanto riguarda l'Unione Europea, quindi la fine dell'idea stessa degli Stati Uniti d'Europa, secondo il manifesto di Ventotene, come aggregazione fondamentale, zoccolo duro dal quale partire per quanto riguarda poi la Federazione Mondiale. E pertanto vi farò ascoltare quello che è stato l'intervento alla gabbia di un giornalista, ex collaboratore, peraltro anche di Report, che è Paolo Rossi Barnard, il quale addirittura parla di vera e propria bomba di Hiroshima, di bomba atomica, come potenzialità deflagrante per quanto riguarda la piccola e media impresa italiana. Ma ora la settimana politica condotta da Monia Chimienti, a seguire l'intervento di Marco Pannella al congresso della Federazione Esperantista Italiana del 1990, intervento del 26 agosto, e a seguire ancora Paolo Rossi Barnard alla gabbia, il TTIP come atomica per la piccola e media impresa italiana. Benvenuti alla settimana politica dell'era. L'ultimo appello firmato da Marco Pannella è stato per l'Esperanto. Questo è l'ultimo appello firmato da Marco Pannella in calce alla lettera a Sua Santità, Papa Francesco. Santo Padre, torni a benedire Urbi et Orbi in Esperanto e sostenga la campagna radicale per la lingua comune della specie umana in tutti gli organismi transnazionali, ad iniziare da quelli delle Nazioni Unite. Lo ha fatto volendo mettere una sua antica frase degli anni 90. Che il bambino del Bangladesh, il bambino più ricco della società britannico-americana, insieme abbiano una seconda lingua, che l'anglofono abbia una seconda lingua, è urgente. La battaglia per il diritto dell'umanità ad una lingua comune, che preservi la pluralità delle culture e lingue del mondo, assicurando nel contempo pari opportunità nella comunicazione transnazionale, è punto della mozione dell'ultimo congresso del Partito Radicale e, almeno dal 1990, con il suo intervento al congresso esperantista di Padova, è stata attentamente sostenuta da Marco Pannella. La Cina promuove un concorso per cortometraggi con sottotitoli in Esperanto. La Cina promuove un concorso per cortometraggi dai 2 ai 15 minuti con sottotitoli in Esperanto. Il titolo del concorso annuale 2016-2017 è Te e amore, intendendo per amore non solo l'amore tra uomo e donna, ma il suo senso più ampio, ovvero l'amore disinteressato tra genitori e figli, la fraternità, l'amicizia, l'amore per la cultura del tè, l'amore per la natura, il desiderio di pace, l'amore per la lettura, l'amore per l'esperanto ed altro ancora. Non vi è alcun requisito specifico per partecipare al concorso. Tutte le opere saranno accolte favorevolmente a patto che siano aderenti al tema e propositive. Il nome Te e Amore diventerà quello permanente del Festival di Cortometraggi, alla stregua del Film Festival di Cannes e quello per gli Oscar. I partecipanti dovranno completare il lavoro con l'aggiunta di sottotitoli in esperanto o nella loro madrelingua. I partecipanti non esperantisti potranno sottotitolare le loro opere in madrelingua. Le opere con sottotitoli in lingua cinese saranno a cura degli organizzatori, ad eccezione dei film cinesi. Questo è il calendario. Dal 1 maggio al 30 novembre 2016, raccolta delle opere. Gennaio 2017, valutazione professionale. Dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, proiezione del film attraverso le piattaforme di rete e votazione in rete. Aprile 2017, Festival internazionale del microfilm Te e Amore, a Guangzhou, in Cina. La valutazione sarà effettuata in rete e da una giuria professionale. La giunta professionale è composta da esponenti cinesi e stranieri ben noti nel settore del cinema e della TV, da esperti di cultura di tè e da esperti di esperanto. La giuria premierà il miglior film, la migliore sceneggiatura, il miglior regista, il miglior film d'animazione, la migliore musica originale, il miglior attore e la migliore attrice, la migliore fotografia, il miglior montaggio ed assegnerà inoltre il premio speciale della giuria. Ciascun vincitore, uno per ciascuna categoria, avrà la possibilità di recarsi gratuitamente in Cina per partecipare alla premiazione del Festival Internazionale di Cortometraggi Te e Amore. Per qualsiasi informazione, il comitato organizzatore risponde in cinese ed esperanto al telefono allo 0086 10 688 91 795 o per posta elettronica all'indirizzo filmconcurso 2015 @163.com. Sul sito dell'ERA www.eraonlus.org trovate anche la pagina in esperanto del concorso e la traduzione italiana delle modalità di partecipazione. E concludiamo la settimana politica con un comunicato di mercoledì 25 maggio. Persino gli anglofoni non ne possono più dell'inglese ovunque. Anche gli anglofoni non ne possono più dell'inglese ovunque. Sono 400.000 i registrati di lingua inglese al corso di Esperanto di Duolingo. E non manca nemmeno il gruppo Facebook degli anglofoni, seguaci di Duolingo in Esperanto, e più precisamente degli statunitensi, giunto ora a 4.178 membri. Mentre gli ispanofoni, che si sono prenotati già per il corso di Esperanto, al momento ancora in versione beta, sono in questo momento 10.583. Signori della Presidenza, amiche e amici, vi porto innanzitutto il saluto e l'augurio per i vostri lavori del Consiglio federale del Partito Radicale, come alcuni di voi sanno, transnazionale, transpartito, del quale ho l'onore di essere Presidente. Un momento fa una cortese giornalista si è avvicinata e, riuscendo, bravissima, senza disturbare nessuno, a pormi qualche domanda, incalzando mi ha detto: ma perché proprio una lingua inventata? Mi sono limitato a mormorare da quel posto alla collega giornalista che, fino a prova del contrario, la storia della umanità in positivo e nella direzione della vita è una storia di invenzioni. D'altra parte, la vita storica e la vita morale sono scelta e sono invenzioni. E dopo 100 anni io credo che la lingua dell'esperanto, la lingua internazionale e le sue ragioni d'ordine generale, i suoi principi, i suoi obiettivi si impongono oggi come una necessità urgente e evidente a tutti. Questo non credo autorizzi nessuno di noi a grandi ottimismi, anzi. Credo che la storia sia un grande cimitero di speranze e di ragioni ideali battute dalla forza bruta delle cose o da scelte opposte degli uomini. Fra alcuni decenni noi potremmo avere in questa società, invece che esaltata la lingua internazionale e quindi la forza anche delle lingue nazionali, delle culture nazionali, potremmo avere invece una omologazione tremenda, perché la forza e la capacità di omologazione nella violenza del nostro tempo e della nostra società è, come tutti sappiamo, estremamente grande. La cosa più probabile è che la logica delle cose si imponga, che l'inglese, per esempio, diventi la lingua, ma quindi anche la cultura, con violenza non soggettiva ma oggettiva, imposta come lingua internazionale. E ripeto, per motivi oggettivi e non per perverse volontà soggettive. E questo è molto probabile. Noi dobbiamo puntare al possibile, voi puntate al possibile contro il probabile. E questo, d'altra parte, è la caratteristica di tutte le grandi rivoluzioni o evoluzioni storiche e anche morali, se me lo consentite. Si tratta quindi di armarci delle armi della non violenza, delle armi del diritto, per cercare di incanalare verso la soluzione della lingua internazionale questa necessità urgente della storia dell'umanità. Credo che vi troviate, abbia ragione Chiti Battelli, abbiano ragione molti di voi, vi troviate a dover compiere sempre di più una scelta, quella di mendicare ed ottenere delle migliori capacità di sopravvivenza come un piccolo gruppo, una internazionale, una piccola o grande chiesa, o altrimenti conquistare all'umanità la possibilità di compiere la scelta della lingua internazionale. E questa è una scelta e comporta una lotta drammatica, difficilissima, di tipo politico. E per questa drammaticità, che con semplicità abbiamo compiuto per esempio la scelta di trasmettere in diretta tutti i lavori del congresso attraverso Radio Radicale, credo che questo sia un fatto storico. Non credo che sia mai accaduto che centinaia di migliaia di persone ascoltino, vivano l'esperanto, non credo sia mai accaduto nel mondo. È una cosa umile, semplice, ma sta accadendo. A partire da questo sarà più facile dibattere creativamente e facendo intendere la concretezza, ripeto, drammatica della scelta che vogliamo che i nostri stati e la nostra società compiano. Vorrei fare alcune proposte o esempi, se loro me lo consentono, prima di concludere. Potremmo stabilire che a novembre o dicembre, per prepararlo bene, ma anche a ottobre, la presidenza dell'UEA venga al Parlamento di Strasburgo per una pubblica conferenza di presentazione, sia ai parlamentari sia alla stampa, di presentazione di obiettivi concreti ai quali il Parlamento europeo, la comunità europea e i parlamenti nazionali debbano assumersi la responsabilità di fare sì o di fare no. Attraverso il Partito Radicale sono certo che troveremo su questo almeno l'accordo di alcune decine di parlamentari europei, i quali oggi ben conoscono i caratteri transnazionali e transpartitici del Partito Radicale, per poter appunto andare a questa concreta imposizione di disponibilità del Parlamento europeo. Sulla base di questa espressione pubblica dell'UEA e quindi di tutti voi, se mi consentite in qualche misura dire anche un po' di noi, noi potremmo adottare una sorta di carta precisa, puntuale, non parlo della grande dichiarazione dei principi, e iniziare subito la battaglia perché la Commissione europea metta in cantiere subito una direttiva comunitaria a favore di quelle cose che chiederemo come esperantisti. Insieme, come Partito Radicale, potremmo lavorare perché lo stesso testo legislativo o gli stessi testi legislativi, parziali ciascuno e sistematici nell'insieme, vengano depositati e non lasciati poi a dormire nel deposito in 7, 8, 10, 12 parlamenti, a cominciare magari dal Soviet sovietico fino ai parlamenti dei 12 e a alcuni parlamenti del terzo mondo. Ma alla stessa ora, allo stesso ora, negli stessi termini, allo stesso giorno, si deve poter poi anche avere un'azione esterna non violenta di sostegno. E per finire con un altro esempio di opera che mi pare di azione possibile, per esempio io credo che potremmo già per Pasqua 91, se non per Pasqua 92, lì lo vedremo, sicuramente ottenere che dal messaggio Urbi et Orbi del Pontefice a Pasqua ci sia anche l'uso, oltre alle 52 lingue dell'anno scorso, anche quello dell'esperanto. Ma basta lavorarci! Sono esempi, prego? Sì, però sarebbe ora anche di consentire al Papa di farlo. No, nel senso che probabilmente il Papa ha bisogno che accada qualcosa perché lo possa fare. Noi siamo trovati ad avere, ed eravamo allora ancora in odore di zolfo, nel 1983, ad avere un'accoglienza, un saluto nel corso proprio della Pasqua dell'81-82, non ricordo, ai radicali e non violenti che, lottando per la fame nel mondo, no, contro la fame nel mondo, erano andati a San Pietro e lo fece contro molti consigli avversi. Figuratevi se noi organizzassimo insieme, e lui lo sapesse, una presenza di saluto e di augurio spesarantista, un po' di massa, dico un po' di massa, non è difficile, con la radio, con gli altri compagni, amici di partito, per Pasqua una festa di questo genere, per usare la bella parola che usa il nostro Presidente, dico una festa di questo genere, io sono assolutamente sicuro, cominciando un po' a conoscere, credo anche i riflessi umani, quando conosce le situazioni del nostro pontefice, che questo lo avremo. Ecco, ho finito, vi ringrazio molto. Naturalmente questi sono esempi e proposte che faccio a voi e faccio al mio partito, che essendo un partito profondamente libertario e federalista, evidentemente deve pure riflettere bene a quel che decide, perché poi è un partito di persone che danno letteralmente corpo, come non violenti, alle decisioni che prendono. Ad oggi siamo un decimo degli esperantisti in quanto radicali iscritti al Partito Radicale Transnazionale. Non basta certamente, ma credo che sarà chiaro, sempre più chiaro a tutti gli esperantisti, quanto la crescita e la possibilità di operare di questo partito internazionale, transnazionale, traspartito, con la storia e la cultura che ha, con meno ancora eroi, se voi volete, o militanti di quanto la causa esperantista non ha potuto fino adesso contare, credo che il problema della salvezza, della crescita, della forza di questo partito, che è riuscito in per 2 o 3 migliaia di persone con la non violenza, forse a salvare dallo sterminio per fame alcuni milioni di persone, credo che questo problema di crescita comune e insieme è un problema che è oggettivamente posto. Si tratterà di vedere se sapremo ciascuno di noi farne, da una evidenza di necessità, anche un punto di riferimento, di speranza, di gioia, di dialogo per ciascuno di noi, per ciascuno di voi e di noi se mi consentite. Grazie, grazie e auguri. Tanto. L'Eurozona, come abbiamo raccontato, è stata il bombardamento di Dresda dell'economia italiana dalla 7ª potenza mondiale ai PIGS. Questo trattato fra Stati Uniti ed Europa diventa Hiroshima, perché l'Italia è il paese in Europa con il maggior numero di piccole e medie imprese, 3.900.000 piccole e medie imprese. La Germania ne ha la metà di noi, meno della metà di noi. E danno da lavorare le piccole e medie imprese italiane al 70% degli italiani. Quindi qualcosa che colpisce le piccole e medie imprese italiane è la bomba di Hiroshima. Okay? Allora, il TTIP viene sbandierato dalle pubblicità come questa. Questa è la Confindustria inglese che dice che il TTIP porterà grandi vantaggi alle piccole e medie imprese. Abbiamo la Camera di Commercio americana che attraverso le più grandi lobby, le vedete tutte segnate in Commissione Europea, dice grandi vantaggi per le piccole e medie imprese per questo trattato. Nella realtà paesi importanti come Francia e Germania si sono già allarmati, già mobilitati, le piccole e medie imprese di questi paesi sanno già cosa sta succedendo, certo. Quelli italiani non si sa dove sono, Boccia poi non sappiamo neanche dove sta, forse in vacanza. Comunque, l'Istituto Veblen di Parigi, molto autorevole, ci racconta che le piccole e medie imprese che esportano negli Stati Uniti in Europa sono lo 0,7%, esportano meno dell'1,8% di quello che producono. Dov'è questo grande vantaggio di magica esportazione negli Stati Uniti delle piccole e medie imprese? Non esiste. Allora, Oltretutto dicono i francesi, e lo dicono veramente con dovizia di particolari, verremo invasi dai prodotti americani che sono più economici. Gli americani sono molto conservatori nei loro consumi. Per esempio, pochi sanno che il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma non è riuscito a sfondare il mercato americano in 30 anni. Per cui i nostri prodotti comunque, per quanto potenti, là non arrivano. I tedeschi, e questo è il BVMW, è la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese tedesche. Si sono già allarmati, già organizzati, hanno studiato il trattato, hanno fatto un sondaggio, il 62% delle piccole e medie imprese tedesche dice assolutamente no al TTIP, il 57% dice è una truffa a favore dello 0,1% delle multinazionali. Quindi Francia e Germania dicono noi il TTIP diciamo no. No, assolutamente okay. Le piccole e medie imprese si sono organizzate. In Italia siamo tutti silenti, però noi abbiamo, come al solito, qualcosa da mostrare di molto interessante, perché mentre questi signori che abbiamo fatto vedere prima fanno delle grandi pubblicità in pubblico sul TTIP e quello che farà alle piccole e medie imprese, noi abbiamo trovato due documenti molto imbarazzanti. Queste sono due grandi confindustrie, Gran Bretagna e Francia, che vanno in Commissione Europea, Direttorato Generale al Commercio, e a porte chiuse dicono la verità. E cominciamo con il primo documento, che è dalla Gran Bretagna, dove si legge testualmente: i benefici di questo trattato per le piccole e medie imprese sono al momento solo ipotetici. Non sanno neanche di cosa parlano. I francesi vanno in Commissione Europea, Direttorato al Commercio, e dicono qualcosa di ancora peggiore. Siamo al 23 di marzo del 2015 e dicono: come si fa con i 19 milioni di piccole e medie imprese europee che non esportano e che avranno una concorrenza massiccia? Che cosa gli diciamo? Questo dicono a porte chiuse. L'ultima caramella, l'ultima chicca, è un personaggio interessante, non è l'ultima persona al mondo, è l'ex primo ministro del Canada, si chiama Stephen Harper, che alla televisione nazionale belga, solo pochi giorni fa, poche settimane fa, nel maggio di quest'anno, ha detto una cosa molto chiara alla domanda: ma le piccole e medie imprese che fine faranno? Ha risposto semplicemente questo: i pesci piccoli sono sempre stati mangiati da quelli grossi, e ha concluso, sorry. E noi per questo continueremo ad opporci al TTIP, a informarvi. E con questo è tutto anche per questa puntata di Traslimen. Da Giorgio Pagano, Gisdraudo. A risentirci. Tutte le specie animali hanno una lingua comune. Le piante hanno una lingua comune. Perché non gli esseri umani? In un mondo sempre più unito, globalizzato, la lingua madre di alcuni popoli rischia di diventare distruttiva, di eliminare il tessuto linguistico e culturale di altre civiltà meno forti. L'umanità deve cercare un linguaggio comune che vada al di là di religioni, etnie e particolari lingue. L'esperanto nasce per questo. Un'assicurazione, uno scudo per la difesa della cultura di ogni popolo, ma al tempo stesso un invito alla vicinanza e alla solidarietà reciproca tra le nazioni. L'amore per il prossimo, espresso in una lingua senza padroni, né servi. Per iscrivervi alla nostra associazione e mandarci un contributo, potete indirizzare un bollettino all'associazione ERA Onlus su conto corrente postale 60397007. Ripeto, il numero del conto corrente postale per iscrizioni e contributi è 60397007.